nulla di nuovo, nel senso che gli Stati Uniti con la presidenza Trump è andato molto oltre. Qualche giorno fa, per esempio, ha dichiarato che se si ritira da presidente degli Stati Uniti diventerà lui il presidente di Israele. In realtà questa nuova posizione del chi si aspettava e non è così inaspettata della presenza Trump attraverso le parole di Pompeo è semplicemente la fine proprio per gli Stati Uniti del rispetto del diritto internazionale. Lo hanno fatto con il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale unica e indivisibile dello Stato di Israele, mentre la comunità internazionale continua a sostenere due popoli e due stati e continua a dire che Gerusalemme deve essere una capitale condivisa, Gerusalemme Est per la Palestina, Gerusalemme Ovest per i palestinesi, poi potrebbero trovare delle forme di comunicazione, di governo insieme. I palestinesi hanno accettato questo, cioè hanno accettato che Gerusalemme fosse una capitale condivisa, mentre Israele continua a sostenere e Trump sostiene con noi che Gerusalemme è la capitale unica e indivisibile dello Stato di Israele. Questo in totale disprezzo della legalità internazionale ed è questo che ha fatto Trump in tutto questo periodo, poco per volta erode qualsiasi possibilità che i palestinesi possano avere un'autodeterminazione. Il problema è che questa politica di Trump è coniugata con la politica di Netanyahu e dei governi israeliani, che sono sempre più nazionalisti e messianici, che ritengono che non soltanto lo Stato di Israele, quello definito non dalle Nazioni Unite, ma quello definito in primo luogo dalle Nazioni Unite e poi dalla guerra di conquista del 49, e hanno praticamente il 78% di quel territorio. In realtà Israele vuole tutta la grande Israele. In questi anni i governi israeliani si sono succeduti e sono sempre più messianici, non solo, ma nei governi israeliani vi sono i coloni, cioè quelli che vanno all'interno dei territori occupati palestinesi, dove dovrebbe esserci lo Stato di Palestina, e rubano terra, acqua, risorse, ammazzano. In questi ultimi tempi sempre di più sono diventati aggressivi verso, per esempio, i contadini che vanno a raccogliere le olive, i contadini palestinesi che raccolgono le olive. Abbiamo testimonianza anche di giorni che noi organizziamo come Asso Pace Palestina insieme ad altre associazioni che vanno appunto in Palestina per raccogliere olive, per aiutare i contadini e cercare di essere un deterrente verso le aggressioni dei coloni, cosa che dovrebbe fare la comunità internazionale, ma che ovviamente Israele non permette assolutamente. Quindi questa ultima decisione di Trump vuol significare semplicemente la fine del diritto internazionale per quel che riguarda gli americani e la politica di Trump che fa il gioco ovviamente di Netanyahu, e significa anche che più del 60% di quello che dovrebbe essere la Palestina e il suo Stato viene annesso ad Israele con l'avallo della grande potenza americana che si crede di poter decidere del mondo. In verità il problema resta quello che farà l'Unione Europea, quello che faranno le Nazioni Unite, che però, come si sa, nelle Nazioni Unite le decisioni vengono prese dal Consiglio di Sicurezza, e il Consiglio di Sicurezza, dove gli americani hanno il diritto di veto, così come hanno il diritto di veto altri paesi, non deciderà nulla. Si vedrà ancora una volta la furto di terra, di vita dei palestinesi nella complicità di tutta la comunità internazionale. Questa è una cosa drammatica, perché non è solo la Palestina, in realtà ovunque nel mondo avanzano forze che sono in totale disprezzo di quello che nel secolo scorso è stato fondamentale, la salvaguardia dei diritti umani e i diritti umani come diritto universale. Questa mossa, insomma, questo riconoscimento delle colonie viene interpretato anche sulla stampa come una risposta alla sentenza della Corte di Giustizia Europea della settimana scorsa, che impone sostanzialmente l'obbligo della provenienza sulle etichette dei prodotti provenienti dalle colonie. Questa è una cosa, una totale sciatica, nel senso che questa decisione del Consiglio d'Europa è minima. Chiedere semplicemente di scrivere da dove provengono i prodotti non è nulla, nel senso che in realtà quello che dovrebbe fare il Consiglio d'Europa, dovrebbe fare la Comunità Europea, tutti gli altri paesi, è quella di dire: nessun prodotto che viene fatto nelle colonie da parte di chi occupa illegalmente, riconosciuto che illegalmente occupa un territorio da parte della comunità internazionale, dovrebbero non entrare in nessun paese. Non solo, io aggiungo che anche i coloni non dovrebbero entrare nei paesi e non gli dovrebbe essere riconosciuto il visto, perché stanno occupando la terra di un altro popolo e la occupano illegalmente, secondo il parere della comunità internazionale. Invece purtroppo ci siamo di fronte a un governo come quello israeliano che ha ministri che vivono nelle colonie, ha il primo ministro che esplicitamente dice che bisogna annettersi le colonie, favorito ovviamente da questa dichiarazione di Trump. Siamo veramente di fronte alla morte del diritto internazionale e noi siamo deboli come società civile, anche se diciamo no, il diritto internazionale va rispettato, in realtà non abbiamo la forza di far cambiare le politiche ai nostri governi, compreso il nostro. Tu fra due giorni, il 21 novembre, sarai a Bologna in via del Pratello 53 al Centro Sociale della Pace con un evento pubblico intitolato Dalla Valle del Giordano Palestina. Ci sarà anche un ospite palestinese con voi. Ecco, tra l'altro proprio da un luogo dove la politica di annessione coloniale è chiara fin dal 67. La Valle del Giordano aveva 370.000 abitanti palestinesi. In tutti questi anni di occupazione militare hanno evacuato la Valle del Giordano, oggi se ne sono di palestinesi 45-50.000, e Netanyahu ha fatto la sua campagna elettorale proprio dicendo, per accontentare i coloni, che quella parte della Valle del Giordano, che peraltro è, una volta era il cestino del pane della Palestina, grandi produzioni di frutta, verdura, datteri, oggi in realtà è in mano al 95% del territorio ai coloni e allo Stato di Israele. E quindi sì, noi venivamo proprio per fare questa campagna, per dire salviamo la Valle del Giordano, e invece c'è questa batosta di Trump, che è una vergogna per il mondo e per chi abbia cuore l'umanità, che dice tutte le colonie, quindi non solo la Valle del Giordano ma anche tutte le colonie intorno, che hanno fatto furbescamente intorno alla linea verde del 67, cioè alla linea che demarcava da una parte lo Stato di Israele e dall'altra quello che deve essere lo Stato palestinese, verranno annesse. Quindi sempre di più è importante, io mi auguro che molte persone vengano a sentire, ad ascoltare che cosa significa la quotidianità di vivere sotto un'occupazione militare, dove nella Valle del Giordano ai contadini palestinesi viene tolta l'acqua, non viene permesso di scavare i pozzi, non hanno elettricità, gli vengono demolite costantemente case o tende perché non gli viene neppure permesso di costruire con cemento, e tra l'altro tende, strumenti offerti anche dati dalla comunità internazionale, che però appunto flebilmente dice è illegale, non si deve fare, ma nulla fa finché Israele possa per una volta rispettare i diritti umani. Ma vorrei aggiungere una cosa, c'è una grande fase, io ho paura, di maccartismo in Italia rispetto alla questione palestinese e israeliana, nel senso che se osi criticare il governo israeliano immediatamente vieni tacciato di antisemitismo. Ora, l'antisemitismo purtroppo è una piaga che deve assolutamente essere risolta, e che però è arrivata molto prima della costituzione dello Stato israeliano. L'antisemitismo è una vergogna per tutta l'Europa, l'Olocausto è una tragedia che mai più deve ripetersi per nessuno, però basta con questa campagna di denigrazione che sei antisemita se tu critichi il governo israeliano. Ci sono migliaia e migliaia di ebrei che vivono negli Stati Uniti, che vivono anche in Europa, che sono contrari alla politica del governo di Israele, e noi siamo con tutti quegli ebrei che dicono occupazione, persecuzione mai più a nessuno. Quindi no antisemiti, ma sì per il rispetto dei diritti umani per tutti e tutte.